La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Devo lasciare la tua mano senza dirti a domani. Con questo singolo, Tante belle cose, torna sulla scena musicale una delle voci italiane più belle, quella di Alice, un'artista elegante, talentuosa e dall'infinita sensibilità. Carla Bissi, questo è il suo vero nome, si era fermata e sembrava non voler più tornare a cantare. È stato il compagno e produttore Francesco Messina a darle la spinta e a sostenere la creazione di un album molto bello dal titolo Weekend, un lavoro a più voci e a più mani nel quale rientrano le voci di Battiato, amico da sempre, di Luca Carboni, canzoni che una dopo l'altra raccontano anche il percorso di una ragazza, Alice, sempre bella nonostante il passaggio degli anni, innamorata della musica sin dai primi anni di vita. Tante belle cose ancora. Devo premettere una cosa: questo progetto è nato, è stato prodotto e realizzato grazie a Francesco Messina, fondamentalmente, che appunto ha realizzato e prodotto l'album insieme a Marco Guarnerio, quasi tutto ad eccezione di due brani che invece sono stati prodotti e realizzati da Battiato, che sono La realtà non esiste e Veleni. E diciamo che io non ho progettato questo album a monte, diciamo, mi sono trovata a contribuire alla realizzazione, diversamente da tutti gli altri miei album precedenti, e questo per vari motivi che non sto a dire. È certo che questo progetto esiste proprio grazie a Francesco Messina, e lui in qualche modo che mi ha aiutato in maniera straordinaria a concretizzare qualche cosa di estremamente importante per me, che mi ha dato l'opportunità di esprimermi a vari livelli, proprio perché è un album in cui le composizioni sono di diversi compositori e autori, e le matrici diverse mi hanno dato l'opportunità di toccare anche delle corde interpretative differenti. Quindi pur avendo una continuità tutto sommato nelle tematiche, anche se appunto con sguardi e con sensibilità ovviamente differenti. Ma perché dici che è stato in qualche modo un album che ti è arrivato, no? Non l'hai proposto tu? No, non l'ho proposto io. Questa è la prima volta che succede, è così. Non avevi progetti, non avevi voglia di andare? No, non volevo assolutamente fare nulla. Non volevo assolutamente, non ero nemmeno in uno spirito creativo, era un momento della mia vita molto difficile per vari motivi, e devo dire che l'insistenza, la passione, il lavoro di Francesco, e non solo di Francesco, perché anche Franco Battiato è stato molto presente in questo senso, e mi hanno veramente aiutato in qualche modo ad uscire da una sorta di limbo che però per me era necessario, perché sai, ci sono delle fasi nella vita, sì, che sono dove uno deve ritirarsi, però insomma il frutto di tutto questo lavoro congiunto è in questo Weekend. Senti, l'altra domanda che ti volevo fare è legata proprio alla storia che si dice di questo album, nel senso che si racconta che il titolo venga ispirato proprio ai tempi di lavorazione, cioè sì, lavoravate solo sì, nei weekend. Sì, esattamente, proprio perché erano gli unici giorni in cui sia Francesco Messina che Marco Guarnerio fondamentalmente erano liberi, E poi devo dire anche Paolo Fresu che ha arricchito, impreziosito questo album con la sua performance in Tante belle cose e nel brano Da lontano, in cui tra duetto con Luca Carboni, anche lui è venuto a registrare durante il weekend, quindi non tutto l'album naturalmente è stato compiuto durante il weekend, perché i missaggi sono stati fatti diversamente, ma la maggior parte del lavoro sì, per questo si chiama weekend. No, è stato molto bello perché prima di tutto abbiamo avuto molto tempo anche per valutare poi quello che stavamo facendo, no? E questo è stato sicuramente molto importante. Ci ha dato la possibilità di avere una visione anche più distaccata e quindi più oggettiva. Come si arriva appunto ad avere anche questa, il lusso secondo me del tempo, cioè della possibilità di riascoltare, perché io ho ascoltato veramente poche tracce, però si sente che c'è molta ricerca, che è un buon punto, direi non d'arrivo, però comunque è un buon punto quello da cui osservare anche il panorama musicale questo di quest'album. Come ci si arriva? Te lo imponi? Nel senso, uno a un certo punto dice... Ma sai, essendo questo album, come già altri, autoprodotto, quindi realizzato con la mia etichetta, i tempi li decido io e di conseguenza, non avendo tutta quest'ansia di pubblicarlo in un preciso momento, mi prendo il tempo necessario. E questo è sicuramente qualcosa di assolutamente prezioso, che diversamente non è possibile. Ci sono sempre delle scadenze da rispettare, dei tempi, e invece in questo caso è stato possibile. Ci sono stati nel tuo percorso professionale dei momenti in cui in qualche modo ti sei invece al contrario sentita tradita dalla fretta, cioè che avresti potuto fare meglio e invece hai dovuto un po' chiudere in fretta? No. No, perché c'è sempre stato la fretta, anche nella fretta, diciamo, comunque nei tempi brevi, c'è sempre stata un'attenzione e anche fino allo sfinimento, capito? Non si mangiava, non si dormiva, ma il risultato doveva essere quello e non accontentarsi. Perché comunque non c'era tempo. No, questo non è mai capitato. A te. Ma tu sai di essere un'icona della comunità gay? Beh, in qualche modo sì, mi è giunta voce. Sì, te... è molto bello questo, perché a parte l'icona, mi fa piacere diciamo, è una questione di sensibilità, evidentemente. E questo è, come dire, è qualche cosa che... Al di là della connotazione, è importante, secondo me, riuscire ad arrivare a comunicare, ad essere realmente collegati, in questo caso attraverso la musica, attraverso il canto, attraverso le canzoni, attraverso i testi, attraverso comunque un certo tipo di comunicazione, e questo va al di là di tutto. La prima volta. Guardare le stelle Da lontano è uno dei singoli contenuti nel nuovo CD di Alice dal titolo Weekend, la tromba di Fresu, la voce di Luca Carboni, per un singolo molto emozionante ed evocativo, il segno del ritorno di una grande voce, quella di Alice. Forse quella che vi raccontiamo oggi è una prima volta che ha per segno proprio la consapevolezza. Ho iniziato, posso dirti che la prima volta in cui ho cantato al di fuori dell'ambiente familiare, avevo 15 mesi. Ma dai! Ed è stato il giorno di Natale, quando mia madre mi ha portato in chiesa per la prima volta. Io sono nata il 26 di settembre, quindi avevo giusto 15 mesi. E siccome mia madre mi ha sempre cantato le canzoncine, io ho dei ricordi, ero nella culla, quindi ho dei ricordi veramente in cui ero piccolissima, avevo pochi mesi, e lei cantandomi queste cose io le ho subito assimilate, per cui quando mi ha messo sulla balaustra davanti al presepe, che mi sembrava, poi così piccolo, mi sembrava una cosa straordinaria, poi lei naturalmente mi aveva preparato in qualche modo a questo evento, e io sono rimasta talmente affascinata, emozionata di fronte al Gesù bambino che vedevo lì pure nella statuina, no? E quando mia madre mi ha detto cantagli la canzoncina, no, di Natale, quello che ti ho insegnato, così, e io tranquillamente, una volta che naturalmente le persone erano uscite quasi tutte, no, dalla chiesa, stavano uscendo, ho cominciato a cantare queste due canzoni che conoscevo, La notte di Natale, Tu scendi dalle stelle, e che tutta la gente è tornata indietro, no? Però al di là di questo ho diciamo in me stampata quella grandissima emozione di poterla diciamo condividere attraverso il canto, quello che mia madre mi aveva trasmesso in qualche modo. Ecco, quella è stata la prima volta, ma evidentemente era destino, perché poi crescendo, sai quando ti chiedono da bambino cosa vuoi fare da grande? E io ho sempre detto, io voglio fare la cantante e la maestra. Ed effettivamente mi sono diplomata alle magistrali, però quello non l'ho mai fatto perché non ti ho mai insegnato. Ti piacerebbe comunque l'idea di insegnare? Mi piaceva a suo tempo, poi non ho mai praticato. Però la cantante, effettivamente ho realizzato questo desiderio. E com'è stato anche così dal punto di vista emotivo, cioè salire sul palco e cantare davanti a grandi pubblici come quelli che hai avuto tu? Beh, è stato veramente molto, molto particolare, perché sono stati anni in cui avevo delle platee davanti a me di decine di migliaia di persone, e io devo dirti la verità, ero un po' impaurita. Perché in quegli anni non c'erano tutte le protezioni che ci sono oggi, erano contesti molto in Italia, perché all'estero non era così, in Germania dove io ho lavorato tanto, ho avuto, devo dire, veramente dei momenti molto belli, era già tutto più organizzato. Ma sì, ero piuttosto impaurita dalla quantità della gente, perché mi sentivo molto indifesa. E invece un'altra cosa che ti volevo chiedere... Mi è sempre piaciuto, molto di più, avere un pubblico più ristretto con cui creare il contatto, perché quando hai questa massa diventa per me difficile riuscire veramente ad entrare in relazione con tutti, perché anche la distanza fisica è importante, e soprattutto in quegli anni non avevo nemmeno gli strumenti per poterlo fare, per esserne anche consapevole, perché poi le cose si imparano strada facendo, no? È la vita anche che ti insegna tanto. E quindi sì, ho vissuto così. Uno scambio, perché comunque nel concerto, io lo dico sempre, in un concerto diciamo, c'è chi è sul palco e c'è chi è in platea, no? Comunque in teatro o nel luogo, nella hall che ospita questo evento. Ma l'evento in sé è fatto di entrambi, cioè è una terza cosa. E devono esserci, deve esserci l'artista, i musicisti, tutto quello che è, allo stesso modo, con lo stesso valore, il pubblico. Se non avviene questo scambio, questa comunicazione, è qualche cosa a metà, cioè per me è un fallimento se questo non avviene, e perché il senso è quello, per me sì, il senso è quello. E quindi è sempre stato così, fin dall'inizio. Nel tempo sono diventata pienamente consapevole di questo, ma è sempre quello che ho cercato. Mi sono resa conto anche istintivamente all'inizio e poi consapevolmente strada facendo. Anche le collaborazioni che hai scelto, i musicisti con cui hai suonato e cantato, sì. Battiato, adesso Fresu, Carboni, comunque rappresentano un po' quella parte musicale italiana. Ma sono musicisti, in particolar modo con Franco Battiato, ma anche con Paolo Fresu, con i quali io collaboro da moltissimo tempo. Franco è una storia a sé, evidentemente, che nemmeno sto a citare, perché comunque in qualche modo la conosciamo, e sono molto amica di Franco da che ci siamo praticamente conosciuti nel lontano 1979. Siete sempre rimasti in contatto, sempre sì, amici? Sì, sempre. Sì, anche se non abbiamo collaborato per moltissimi anni, abbiamo ripreso recentemente quando, appunto, già con Samsaram, l'album precedente a questo, gli avevo chiesto se scriveva un brano per me e l'ha fatto, e ha scritto questo brano meraviglioso che si chiama Eri con me. Poi naturalmente si è come riaperta questa possibilità, un nuovo ciclo, ed è molto presente anche in questo album. E per Paolo Fresu, anche un musicista che io apprezzo e stimo tantissimo, così come anche Luca Carboni, ma Paolo Fresu, diciamo, ho iniziato con lui a collaborare nel lontano 1989-90, capisci? Che lui è un personaggio meraviglioso. Ed è straordinario, l'ho visto, lui era giovanissimo, l'ho visto proprio crescere, e oggi è un musicista proprio internazionale, straordinario. E Luca Carboni, che io avevo apprezzato fin dall'inizio, dai suoi esordi, me lo ricordo molto bene. E ho avuto il piacere di cantare con lui Farfallina nel suo album di duetti, sì, che è uscito l'anno scorso, e mi ero trovata veramente molto bene. Ho scoperto una persona meravigliosa, oltre che un artista veramente completo, e così io, con questo brano Da lontano, che è così uno scambio, no? E è stato naturale pensare a lui come per poter duettare, così lui ha accettato, è stato molto, molto bello, insomma, e il risultato poi lo si può ascoltare. Poi volevo chiederti anche questa cosa, tu hai parlato di Fresu come artista internazionale, ma anche tu sei un'artista internazionale molto amata in Germania, molto amata in Giappone. Ma la Germania per me è stata veramente come una seconda patria, perché dall'81 fino al, che anno era, quando ho fatto, al 96, quando ho fatto l'ultimo tour, diciamo, europeo, veramente per me è stata una seconda patria. Diciamo che tutto è partito da Per Elisa, quindi dal Festival di Sanremo, da quella vittoria, da quel brano che ha fatto un po' il giro del mondo, anche se io non lo sapevo, l'ho scoperto poi strada facendo, perché non è che ero informata dalla mia casa discografica sugli eventi, no? Poi, a parte che sono sempre stata completamente disinteressata alle classifiche, al numero di copie vendute, veramente sempre stato qualche cosa di un altro pianeta che non, diciamo, con cui non ero in contatto. E per Elisa però era un po', è diventato un po' un tormentone per te o te ne lo, sei... Sì, no, lo è diventato, difatti non ho più cantato questo brano per vari decenni perché era diventato una sorta di incubo. E soltanto recentemente ho recuperato anche il piacere di cantare questa canzone, che comunque è una canzone molto importante per me, per tutta la mia storia professionale, ma anche personale. Un'altra domanda che volevo farti è, prima hai parlato di tua mamma, quindi questa immagine di tua mamma che canta, eccetera. Com'era la tua famiglia d'origine? Tu sei nata a Forlì, come sei cresciuta? Com'era il contesto? La mia famiglia era una famiglia molto semplice, mio padre era un musicista e cantava benissimo, era un tenore leggero e suonava e cantava nelle big band negli anni 50. Poi per sopravvivenza non ha più potuto, diciamo, fare il musicista, e mia madre era impiegata e comunque anche nella sua famiglia la musica regnava sovrana per diletto più che per professione, e quindi la musica ci è sempre stata in famiglia. Mia sorella infatti si è diplomata in pianoforte. E cosa tuo che papà per me non ha mai ostacolato il tuo sogno? No, anzi, praticamente ero la realizzazione del suo sogno in qualche modo. E tant'è che quando lui è morto nell'84, per me è stato veramente molto difficile continuare a cantare, e perché come se mi si fosse spezzato qualche cosa dentro. Ed è stato proprio il ricordo di quello che lui mi disse l'ultima volta, quando ci siamo abbracciati per l'ultima volta, prima che lui se ne andasse improvvisamente, naturalmente non lo sapevo, allora mi ha dato la forza per continuare. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili. Noi ci fermiamo qui. Potete ritrovarci online sulla pagina di Radio 24, cercate La Prima Volta. Potete riascoltarci in podcast, seguirci sulla pagina Facebook, scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Grazie in regia a Peter Bescapè e grazie soprattutto a voi per essere stati con noi. Buona domenica da Cristina Carpinelli.